Kellogg, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Mi è tornato in mente un argomento caro a chi mi ascolta, perché ieri hanno fatto due paginoni su Repubblica. Natalia Aspesi ha scritto moltissimo sull'industria della nostalgia. La nostalgia in realtà ha un suo portato industriale. Ormai tutto ciò che è vintage, tutto ciò che appartiene, segnato dal passato, tutto ciò che noi andiamo a recuperare in dei mercatini della memoria, ha un valore. Ha un valore in quanto una delle caratteristiche della contemporaneità è riproporre come fantastico generazionale ciò che appartiene al passato recente. Voi mettete gli abiti dismessi dei vostri genitori che erano stati pietosamente riposti in degli armadi, perché date un valore a quelle schifezze che mettevamo negli anni 70, a quei maglioncini striminziti, a quei pantaloni strizzapalle, a quelle fantastici colori acidi e schifosissimi, soprattutto a quei tessuti sintetici che sono l'antitesi totale dell'idolatria del naturale, che oggi in realtà sembra essere una delle ideologie correnti della contemporaneità. E in questo straordinario mix riappaiono improvvisamente oggetti che pensavamo seppelliti dall'upgrade tecnologico. Vedo dei fantastici giradischi con porta USB che permettono di riversare in un file MP3 quello che proviene in un disco in vinile, che sembrava un oggetto ormai abbandonato, dimenticato. Quanto facciano schifo i dischi in vinile, occupavano un sacco di spazio, servivano ai fighetti per arredare le loro stanzette schifose fatte con mobiletti di formica e ferro verniciato, i cosiddetti mobili moderni svedesi, pieni di questi dischi al vinile che erano fantastici. Chiamavi una ragazza a casa, vieni, ti faccio ascoltare un disco, tiravi fuori questa sorta di pizza di plastica, la mettevi sul giradischi, questa girava e con la puntina che ogni tanto saltava e il disco che ogni tanto si rigava, e se lo lasciavi al sole si deformava, e allora col ferro da stiro dovevi riportarlo alla sua dimensione naturale. Pensate che noia, quanto è meglio l'impalpabile musica di un file, che è semplicemente qualcosa che non si tocca, che non c'è, che trasferisci, che ti porti dietro, che depositi in una nuvola e te lo senti quando ti pare e puoi condividerlo con chiunque. No, quello era l'oggetto concreto. La stanzetta arredata era il simbolo del potenziale erotico della persona che aveva tanti dischi. E poi le cassettine. Questa mattina, se date un'occhiata al profilo Facebook di Melog, andate in giro un po', vedete, non ricordo più nemmeno, avendo ormai collegate tutte le mie appendici elettroniche, dove sarà apparso, ma ho fatto un filmatino in cui elenco alcuni dei materiali della nostalgia che dovrebbero far impazzire. Lo sportello in formica del frigorifero aziendale dovrebbe sembrare legno tech, improvvisamente arrivò, era un legno che veniva da lontano, un legno indistruttibile, un legno bellissimo, in realtà era plastica. Il tech che arrivava da noi era semplicemente plastica, non aveva nulla, nemmeno il ricordo, solo la venatura disegnata e stampigliata dell'origine del legno. E poi naturalmente questi orribili dischi, questi supporti della musica, la musica che era su oggetti grossissimi. Io ricordo ancora con nostalgia, ma l'avevo detto da chissà quante volte, le cassette stereotto, quelle a ciclo continuo con le musiche di Fausto Papetti. Questi sono ormai ricordi da persona putrefatta. Nessuno delle persone che ascolta saprà che siano mai esistiti questi scardinatori della virtù femminile, che uno li metteva nel giranastro dell'automobile e giravano continuamente con questo sax che smutandava lentamente in maniera subliminale. Volete mettere? Sì, però appartiene a qualcosa che è del passato. Come si fa a dare un valore di attualità a qualcosa che è già stato, già vissuto, già disossato? E come le ossa che sono bollite, ribollite, hanno fatto 70 estratti di brodo e ancora ribollo nella pentola del poveraccio, per dare una parvenza di sapore all'acqua che bolle nella pentola. Perché continuiamo a tenere ossa spolpate nella pentola dei nostri ricordi pensando che abbia un valore? 800240024. Ma siete proprio convinti che il passato e la nostalgia abbiano un valore? Noi, che la penitenza era dire, fare, baciare, lettera, testamento. Noi, che ci sentivamo ricchi con il Parco della Vittoria e il Viale dei Giardini. Noi, che il ciao si accendeva pedalando. Noi che dal benzinaio facevamo miscela. Noi che suonavamo al campanello per chiedere se c'era l'amico in casa. Noi, che se le cassette ce le mangiava il mangianastri, ci toccava riavvolgere il nastro con la bic. Noi, che litigavamo su chi fosse più forte tra Goldrick, Mazinga, Daitan Tre o Gigrobò. Noi che si andava in cabina a telefonare con i gettoni. Noi, che avere i genitori divorziati era impossibile. Noi, che le ricerche le facevamo in biblioteca, mica su internet. Noi che ci mancavano. Il segno tangibile che sia decaduta come corrente trendy la contemplazione e l'idolatria del passato dovrebbe dimostrarlo il fatto che nel tempio della necrofilia che Rai 1 si è arrivati a parlare delle stesse cose di cui si parlava come fosse un fenomeno d'avanguardia nei siti internet degli anni 90, cioè del valore dei cartoni animati giapponesi, di Godzilla, di Mazinga Z, della bicicletta Graziella con le ruote piccole e col freno a contropedale, di tutte quelle fantastici oggetti in plastica che costellarono la giovinezza, l'adolescenza delle prime persone che si affacciarono a internet come mondo della novità, della libera espressione. La prima cosa che fecero è celebrare il loro passato, celebrare la gloria dei loro anni migliori. Poi venne Fabio Fazio, fece anche lui una grande operazione in nostalgia, catapultata dai libri di Tommaso Labranca, uno degli ideologi e dei filosofi della contemplazione del passato come esempio di splendida necrofilia. E poi arriviamo a Rai 1, che è un programma di successo di prima serata, riporta come valore quello che sembrava appartenere a una sorta di idea di avanguardia, che gli anni 70 e gli anni 80 avessero il loro valore estetico, anni che non ricordavamo soltanto come anni di piombo. 800240024. Emiliano Morreale, buongiorno. Buongiorno. Emiliano è un critico cinematografico, studioso di storia del cinema, ha scritto tra i suoi numerosi saggi L'invenzione della nostalgia, Il vintage nel cinema italiano e dintorni, Edizioni Donzelli. Emiliano, questa operazione nostalgia è diventata un vero e proprio business, non perché ci faccia schifo, qualcosa di estremamente di gran valore poetico può diventare sicuramente un business, ma in questo caso quando approda in prima serata di Rai 1 la celebrazione degli elementi nostalgici degli anni passati, qualcosa mi fa pensare che sia esaurito anche il filone, sei d'accordo? Sì, credo che negli ultimi anni questa cosa, che era questo fenomeno che era avvertibile in maniera già massiccia, sia diventato sempre più chiaro, e soprattutto che sia sempre più chiaro il suo lato commerciale. Prima abbiamo potuto immaginare che si trattasse addirittura di una sensibilità elitaria, no? Uno si ha la nostalgia, un po' Fabio Fazio era così, diciamo, sì, noi ci possiamo permettere di avere nostalgia anche della robaccia. Sì, ma era già una rilettura, Fazio già l'aveva ereditata da qualcuno che l'aveva riscoperta. Sì, anche Aldo Nove, no? Una serie anche di scrittori, c'era vista come cosa molto... Sì, nacque un po' nel mondo cannibale, diciamo a metà degli anni 90, quando ci si affacciò alla rete come luogo eccelso e serbatoio dei nostri più profondi e inconfessabili e poetici ricordi. Gli anni 70 esplosero, gli anni 80 esplosero, si cominciarono a rivedere in rete cose che non avevamo nessun supporto per rivederle. Quando cominciamo a vedere in rete i cartoni animati della fanciullezza di chi allora aveva 30 anni, non c'era altra maniera, non esistevano le riedizioni in edicola. Quindi la rete, diciamo, è stato il crogiolo in cui si è maturata questa sensibilità estetica. Ma una volta che l'ha presa la televisione, ahimè, è già bella che è morta, questo almeno secondo me. Sì, credo che ci siano stati alcuni passaggi, cioè il primo è che questa generazione di cui tu parlavi, cioè quelli cresciuti negli anni 70-80, è la prima generazione di consumatori massicci di immagini, perché sono quelli i primi cresciuti con le TV private. Credo che l'arrivo delle TV commerciali, no, sia stato un elemento fondamentale. Un conto è crescere con la Rai di Bernabei e un conto è avere davanti l'esplosione delle TV locali. Che per paradosso era una scelta di mercato, cioè mandavano questa roba perché costava poco, e in realtà crearono un culto. Sì, sì, assolutamente, erano spesso anche roba ancora più vecchia, riciclata, eccetera, ma crea questo fenomeno. E il secondo elemento evidentemente è l'arrivo di internet, cioè l'arrivo di tutti questi materiali in rete, il che crea un fenomeno paradossale, lo ripeto sempre, cioè il fatto che non sappiamo bene adesso cosa succederà di questa nostalgia. Forse la nostalgia non esiste più, è già stata sostituita dal vintage. Io non vorrei neanche più parlare di nostalgia, perché ci sia nostalgia, una cosa deve sparire per un po'. così che uno possa dire: ti ricordi quella cosa? È un baule che si riapre, ma il baule non si è mai chiuso, in effetti. Con internet non si richiude mai, perché io 5 minuti dopo carico tutto su internet. Allora, mancando questa fase intermedia, come dire, non è più propriamente una nostalgia, è solo un grande armadio sempre aperto nel quale al massimo mi posso permettere di fare il cambio di stagione, che non è propriamente una sparizione, ma è soltanto un momentaneo spostarsi su altri oggetti. Cioè, il passato è tutto davanti, le immagini, non il passato, le immagini del passato, questo è importante distinguerlo, è tutto davanti ai nostri occhi. Dico le immagini del passato perché noi stiamo parlando di oggetti, fotografie, musiche, merci. Questa è la cosa fondamentale, non stiamo parlando del passato storico, cioè noi stiamo parlando di cose che sono già state elaborate, manufatti, merci che noi abbiamo consumato, di una memoria di consumatori e di spettatori. Questo è il grande, diciamo, ritornano in vetrina i fondi di magazzino, se vogliamo considerare il nostro immaginario come un grande supermarket. Sì, e poi soprattutto un grande supermercato in cui gli oggetti sono più o meno tutti uguali, le epoche sono più o meno uguali. Certo, quelli della nostra infanzia hanno una coloritura affettiva in più, ma questo non è necessariamente, non è che debba essere per forza così. Per esempio, adesso c'è un forte ritorno, che so, degli anni 60, 50 e 20, che nessuno degli spettatori, non so, di Boardwalk Empire ha davvero conosciuto, o di The Artist. Quindi direi che il vintage presuppone una equivalenza di tutte le epoche storiche, cioè, non è che è importante che io per forza alla fine si annullerà il tempo, finalmente non ci sarà un tempo che non avrà più una sua scansione, ma vivremo sempre una contemporaneità in cui tutto sarà presente, come in quei film in cui c'è la macchina del tempo, alla fine c'è lo sfasamento spazio-temporale. Sentiamo qualche ascoltatore. Marco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Complimenti scontati, ma dovuti, direi. Quello che volevo dire io è che semplicemente apprezzo di questo tipo di ricordi che fossero difficili in qualche modo rispetto al modo in cui viviamo oggi, secondo me in due maniere, in due modalità. Una, ci voleva tempo per fare tutte queste cose, e due, era difficile gestire tutte queste cose, per cui questo modo, questi due modi secondo me di essere difficili, no? Come hobby, come consultazione, lei prima parlava dei dischi, del vinile, eccetera eccetera, ci educava in qualche modo a un rapporto con gli oggetti e anche poi con le persone che secondo me oggi un po' si perde, nel senso che, per esempio, riprendendo l'esempio che ha fatto lei, stirare il vinile per riportarlo alla forma voleva dire magari, che ne so, essere sicuri di farlo in un luogo in cui non arrivasse tua sorella a incasinarti tutta la cosa, per cui se poi arrivava dovevi gestire anche un po' l'intervento. Ma certo, gli oggetti che vengono riesumati in un'operazione di nostalgia, che è anche un grande business, perdono le loro destinazioni d'uso primarie. Se vi faccio vedere un cassettone sterrotto, voi non immaginate quale sia il suo vero uso, lo vedete, lo mettete magari in vetrina e tu che bello, vedi che con le foto delle donnine sopra è Fausto Papetti con il sax. Però voglio fare intervenire anche un altro ascoltatore, Guido. Ciao, io volevo invece parlare di tempo oggettivo e tempo digitale, nel senso che mi sembra che gli oggetti finiscano per essere il tempo che poi abbiamo intorno. Io è perfettamente ragione, ho capito cosa vuoi dire, sì, è giusto. Cioè, e quindi finisce che il tempo è passato soltanto perché quell'oggetto è invecchiato. Il tempo digitale invece è un tempo diverso, ovvero io ho la sensazione che anche io mi occupo di comunicazione digitale e penso che le cose digitali invecchino come oggetti, si manifestano nella loro vecchiezza anche dopo pochissimo, anzi la vecchiezza da quel punto di vista è ancora più veloce, e quindi è come se il mondo digitale non facesse altro che aumentare la vorticosità della vecchiaia, rendendo tutto sempre più vecchio e quindi ancora più, come dire, annullato. Prima parlavi del tempo che non esiste più. Ma tu guarda oggettivo... una semplice applicazione che scarichiamo per il nostro iPad, iPhone, continuamente deve fare un upgrade, se noi la vediamo nella sua prima versione ci sembra già vecchia, ma magari di un mese fa. Esatto, l'usabilità mentale degli oggetti cambia e quindi cambia per noi l'approccio che abbiamo verso il tempo. Questo però mi fa aggiungere ancora una cosa, nel senso che prima parlavate di vintage, ecco, una volta c'era la scala, no? Il vintage poi diventava antichità e poi diventava qualcosa che doveva essere per forza collezionato perché aveva un valore in sé. C'era un'energia che si inanellava e diventava storia. Tutte le epoche sono state così, tutti i momenti sono stati rivalutati e poi ripresi e poi rifiutati e poi rigettati e rivomitati e poi di nuovo rivalutati. Però esiste una circostanza in più, un additivo che non possiamo trascurare. l'oggetto trasformato in oggetto digitale assume un'altra esistenza. Noi stiamo parlando di cose che poi realmente pochi di noi posseggono tangibilmente, concretamente: gli antichi fumetti, le vecchie canzoncine, cartoni animati del passato, gli oggetti che appartenevano a un'epoca. Molte volte noi è sufficiente semplicemente averli e possederli perché c'è un sito che li elenca, c'è un appassionato che ci dà l'applicazione. Uno dei fenomeni che più ho notato nello scaricare in maniera compulsiva le applicazioni per l'iPad è l'infinità di piccoli programmi che permettono di fare foto o fare filmati con una patina del passato. Gli stessi filmati di Melog che metto ogni giorno io come anticipazione a trasmissione sono girati come se fosse un filmino in Super 8 degli anni 70, addirittura con la data, addirittura con lo sgranamento della pellicola. Questo perché? Perché evidentemente la tecnologia ci permette di dare un valore all'oggetto che noi filmiamo nel nostro presente, dandogli già la patina del passato. Quindi è come un mobiliere taroccatore che spara col fucile a pallini sul mobile nuovo per farlo sembrare tarlato. Noi spariamo col fucile a pallini sul nostro presente per dargli subito il valore di passato. E una impallinatrice di presente, ce l'ho qui in studio questa mattina, è una giovanissima melogmane 22enne che mi seguì in bicicletta la notte dei 100 fino a Milano, Emanuela Damiani, buongiorno. Buongiorno. Emanuela è una grafica, è un'appassionata del mondo di Instagram, che è una di queste applicazioni che permette di fare foto datate, che si possono immediatamente sporcare, rendere vintage, anche se noi fotografiamo il nostro presente, e si possono scambiare in un grande social network che permette di scambiare i ricordi della contemporaneità. Spiegami dal tuo punto di vista quello che fai, quello che fate voi. Guarda Gianluca, è molto semplice perché praticamente la cosa bella di Instagram è che ti permette di scambiare, come hai detto tu proprio bene prima, la propria quotidianità, una istantanea della propria giornata, un dettaglio che è stupido, ma se lo ricopri di una patina vintage, di un filtro di Instagram, improvvisamente acquista valore. Giusto per farti un esempio, l'altro giorno ho fatto una foto ai ghiacciolini che si erano creati fuori dalla mia finestra a Roma. Come tutti, diciamo. Vabbè, c'è stata un'invasione. Figuriamoci. Però, improvvisamente. Il meteo sharing è stata l'attività che più ha appassionato gli italiani in questi giorni. Scambiarsi le foto della neve. Però, una foto stupida dei ghiacciolini con una patina sopra vintage ha reso tutto molto più appetibile. Solo che ormai ce l'hanno tutte, c'è le applicazioni vintage. Bellissimo, noi abbiamo le foto della neve di 3 giorni fa che sembrano le foto della neve degli anni 60. Fra l'altro noi pure siamo balcanizzati, siamo vestiti con abiti che sembrano presi da un vecchio filmato degli anni 70, maglioncino a righine marroni lei, pile antico grigio con le cerniere lampo fosforescenti io, scarponcini antichi. Sembra quasi che la neve ci abbia rotto la continuità spazio-temporale. Siamo tutti precipitati in un fantastica Italia del boom economico in cui per la prima neve si andava con la 600, con le catene e con i pantaloncini elasticizzati, le donne con la ghetta sotto, e gli uomini vestivano come vestono sempre, con il vestito, con la giacca, la cravatta e tutto al più mettevano delle calosce infilate. Esattamente questo. E anche su Instagram, se uno fa un giro nelle gallerie, nota come sia le foto che sono state fatte un anno fa, perché l'applicazione ha ormai un anno, che quelle che sono scattate questi giorni, sono praticamente contemporanee, ma di una contemporaneità che non esiste. Quando verranno gli UFO, di noi non rimarrà che un pallido ricordo, semplicemente ancorato ai supporti alla nostra memoria. Come faranno questi omini verdi a capire se una foto è stata fatta nel 2012 o è stata fatta nel 1965? Questo sarà il vero problema. Cristina, velocemente. Buongiorno, sì. Io credo che l'operazione nostalgia per me è vitale, nel senso che devo assolutamente ogni tanto immergermi nel passato per poter avere energia per affrontare il presente e il futuro. Lì trovo le mie radici, lì trovo la mia forza. E dove stanno le sue radici? Dove affondano? In quale terreno? Affondano per esempio nel riguardare le foto di quando ero bambina. Io insomma sono piuttosto adulta, ho 52 anni. Vabbè, adesso non esageri, 52 musica, anni ancora, prego. Uno a 52 anni uno ancora è passabile averci i 52 anni. Ho detto che non sono, mica ho detto che sono vecchia, ho detto sono piuttosto adulta. perché credo che a 52 anni ci si possa ritenere tale. C'è un dualismo che mi impressiona anche me, il fatto per esempio che ci sono canzonette che non apprezzavo negli anni 70, le giudicavo banali e lontane dai miei interessi. Mi viene in mente Anima Mia dei Cugini di Campagna. Che invece oggi mi commuove. Ma su Anima Mia sarà fatta un'operazione divertente quanto scellerata. Poi ci fermiamo solo un secondo, resti lì, non se ne vada, perché mandiamo le informazioni della borsa, intanto lei riflette su Anima Mia. Cugini di Campagna ancora girano. Un giorno Lucci, che è una delle iene più geniali, li ha fatti scarnificare, hanno le vene varicose, le emorroidi, i calli, i duroni, si sono visti che ormai sono putrefatti anche loro, però con i loro scarponi cantanti giovanili, con i loro parrucconi in testa, ancora fanno la loro porca figura. Ci sentiamo tra un istante. Potete riascoltare Melog in podcast su www.radio24.it. Melog, la realtà condivisa. Orologio Casio vintage con display a cristalli liquidi, cronometro, luce, con batteria della durata di 7 anni. Offerte a partire da 20 euro. All'asta vecchio interruttore vintage con pulsante a farfalla di colore marrone, rinvenuto nella casa dei nonni. Offerte a partire da 6 euro. Stiamo cercando di carpire quale sia il valore della nostalgia, dato che il fenomeno è percepibile, il fenomeno è attuale, il fenomeno è contemporaneamente è praticato, ci sembra di aver compreso perlomeno che il fatto che la diffusione della rete come grande deposito di materiale dell'immaginario ha permesso che si rompesse questa sorta di rigida scansione del tempo. Possiamo vivere in qualsiasi tempo pur vivendo nella nostra contemporaneità. Lo facciamo facendoci contaminare con immaginari che appartengono al nostro passato, ma che noi perdiamo il senso dell'appartenenza di un oggetto, di un modo d'essere, di uno stile di vita a un'epoca che non è la nostra, ma pensiamo di averlo vissuto anche noi. Io mi illudo di aver guardato i cartoni animati giapponesi da bambino, ma in realtà no, ero già grande, li guardavano i miei fratelli più piccoli, ma chissà perché nella mia testa è come, ah sì, io appartengo all'età di Mazinga Z, ma Mazinga Z io già avevo fatto il militare, roba del genere quando c'era Mazinga Z. Emiliano Moreale, ricordo, critico cinematografico, studioso di storia del cinema, ha scritto L'invenzione della nostalgia, il vintage nel cinema italiano e dintorni, Donzelli. Mi fai una rapida carrellata, Emiliano, di quelli che sono i film più significativi che hanno cavalcato questo filone? Beh, direi che per gli Stati Uniti, che sono stati quelli che hanno scoperto questa cosa per primi, bisogna addirittura andare agli anni 70. Secondo me prima degli anni 70 non esiste questo fenomeno della nostalgia di oggetti cinematografici, musicali, eccetera, no? Diciamo del vintage SPA, come lo chiamava l'articolo di Repubblica dell'altro giorno. Quindi direi sono fondamentali, non so, American Graffiti è stato un film abbastanza epocale. Anche perché era un film che tentava un azzardo molto forte per l'epoca, cioè la nostalgia di appena 10 anni prima, quello è un film del 73, mi pare ambientato nel 62, cioè con un giro di anni abbastanza stretto, ed è la prima volta che questo accadeva. Poi per tutto il decennio ci saranno molti film nostalgici e soprattutto nostalgici di cinema, cioè un cinema che andava in crisi aveva nostalgia di se stesso, penso all'ultimo spettacolo, Paper Moon, tutti questi film, però lì ancora c'era un elemento forte che era l'idea di una continuità nel tempo, cioè la nostalgia era il senso di una crescita nella quale qualcosa era andato perduto, il classico finale di American Graffiti in cui ci siamo cresciuti, qualcosa è andato perduto, ma c'è un senso di continuità, una linea che collegava il passato al presente. Nel decennio successivo questo salta, negli anni 80 è l'epoca del remake, del manierismo cinematografico, del citazionismo, eccetera. In Italia siamo ancora un po' indietro, perché arriva Sapore di Mare, che è un po' l'equivalente di American Graffiti, no? Arriviamo un po' in ritardo. Tu pensi che in Italia guardavamo Happy Days e pensavamo che realmente fosse un telefilm degli anni 50? Che sì, esattamente. L'arrivo di Happy Days è già una delle prime cose che Happy Days appartiene a quel. È un passaggio abbastanza indicativo, perché rispetto ad American Graffiti, se si passa ad Happy Days e a Grease, c'è un certo salto, cioè Grease è già sono degli anni 50 già tutti sognati, tutti vintage. American Graffiti non è un film vintage, Grease sì. L'altro passaggio forte credo sia l'arrivo dell'immaginario di Tarantino. Credo che i film di Tarantino siano importanti perché puntano proprio su una indifferenza del passato, cioè sì, passato, ma lui è molto essere selettivo, lui va a cogliere del passato gli oggetti più reietti, quelli che di cui ci ricordavamo con vergogna, che nascondevamo, come giornalini zozzi del Tromba di cui parlammo poche settimane fa, che fecero non a caso, è stata una delle trasmissioni con maggior numero di telefonate. Ho citato la naia e l'immaginario legato alla naia, che è qualcosa che ormai appartiene a un passato remotissimo. Improvvisamente è scoppiata la nostalgia per il servizio militare, con tutto l'indotto di subletteratura che la celebrava. Sì, quello, così come anche gli esami di maturità, sono un'altra cosa su cui ha lavorato, per esempio, notte prima degli esami, il film. Ma io, guarda, ho rivisto Immaturi ieri, ho visto perché ero immobilizzato in un divano e non avevo voglia di far niente, non l'avrei mai visto. E anche lì c'è questa sorta di mieloso ritorno di questi quarantenni che devono ridare l'esame di maturità, improvvisamente vengono riproiettati anche loro in degli anni 90, che per loro apparteneva antidiluviani. Direi che però l'Italia, ecco, l'esempio di Immaturi è illuminante, perché l'Italia è sempre un po' morbida, non è mai il cinema italiano non è mai oltranzista in queste cose, cioè non spara mai davvero il vintage a palla, cioè non riesce mai davvero a sfruttarlo totalmente nel bene e nel male, cioè non riesce mai né a dare il film critico come aveva fatto pure negli anni 70, penso da Mark Ord al Conformista, no? Fin sugli anni 30 che usavano un lato, questo lato diciamo di modernariato per in maniera molto critica, e però non riesce neanche a sfruttarlo in maniera massiccia come invece fanno anche in Italia altri settori, come fa la televisione, come fanno. Sì, perché poi si ricordano anni 80 e anni 90 soltanto per le cose più banali, non si ricordano che erano gli anni in cui tutti si bucavano d'eroina, in cui la gente si sparava per strada. Queste cose vengono, non so, selezionate. Giovani liceali degli anni 80 e 90 sembra che, ne so, che andavano soltanto nella casa Sabaudia a studiare e a dare gli esami assieme, e si fidanzavano. Posso dare un'ipotesi, perché sì, si tratta in fondo anche di una, come dire, di una nostalgia di ceto e di classe molto selettiva, cioè non è la nostalgia di tutti gli italiani, è di una borghesia. Parlavano delle loro trombate anni adolescenziali, dimenticando che erano gli anni in cui si sentiva di questa roba dei lights come una cosa che veniva da lontano, che si prendevano soltanto i gay americani, ma lentamente poi capimmo che qualcosa poteva toccarci molto da vicino. Queste cose sono selezionate, lì c'è una selezione opposta rispetto a quella che fa Tarantino, tengono solo le cose zuccherose, quelle che fanno piacere alle brave mamme. Come dire, assegnato, se uno sei davvero un abitante dei bassi napoletani o dell'Interland palermitano, dovesse ricordare gli anni 80, ricorderebbe altre cose. Il fatto è che nel frattempo quelle memorie, che sono anche parziali, di ceto e genere, quasi geografiche, sono diventate egemoni in qualche modo, cioè sono diventate le memorie di tutti. Quindi diciamo che il vero limite del vintage e del mercato della nostalgia è che riscrive la storia, si sovrascrive la storia, che è una cosa che a me affascina, ma noi viviamo una storia degli anni recenti sovrascritta, non soltanto per revisionismo politico, per rilettura fatta su piani filosofici, ideologici, ma fatta anche da questo sciatto e fantastico mercatino della nostalgia che riscrive anche le nostre storie recenti. Quindi svegliamoci. Sentiamo Orazio Spoto. Orazio Spoto, buongiorno. Buongiorno a tutti. Lei è responsabile della community milanese degli Instagram, quelli che fanno le foto antiche. Ma come passate il tempo? Vi rendete conto che state anche voi riscrivendo una storia? Quando verranno gli UFO, confonderanno le vostre foto con quelle dei vostri nonni? O penseranno che stavamo giocando, perché l'obiettivo principale è essenzialmente divertirci. Poi con la nascita della community al divertimento digitale abbiamo anche aggiunto il divertimento reale, nel senso che ci incontriamo e quindi abbiamo modo di scambiarci pareri, opinioni e ovviamente fotografie. Ma vi incontrate che siete anno 2012, come fate a invecchiarvi anche personalmente? Innanzitutto spiega cos'è Instagram, perché sennò la gente non capisce. È una piccola applicazione scaricabile facilmente, gratuitamente, mi sembra. Sì, è un'applicazione per il momento disponibile solo per iPhone, poi prossimamente per i sistemi operativi Android, quindi quelli di Google. È gratuita e si può scaricare dal negozio di applicazioni Apple chiamato Application Store. Uno fa delle foto e poi può mettere dei vari filtri, sembrano delle foto antiche, esatto, dei decenni passati. Esattamente, ci sono 16 filtri, ognuno di questi possono essere o per anticare le foto o altre magari per sovraesporle o sottoesporle, che sono concetti, diciamo, semplicissimi per chi è anche minimamente appassionato di fotografia. Ma essenzialmente è un modo per divertirci, nel senso che noi con il vintage ci giochiamo, nel senso che non c'è la necessità di portare tutto quanto per forza nel passato. Senti, quanti siete più o meno nel mondo, in Italia, a far questo giochino? Beh, allora, nel mondo siamo 15 milioni, ci sono 15 milioni di utenti che hanno scaricato questa applicazione e la utilizzano. Per quanto riguarda la community degli Instagrammers, che è un po' come se fosse un fan club organizzato in tutto il mondo, saremo all'incirca 70-80 mila. Tra l'altro è possibile con degli hashtag, cioè quello che è il cancelletto che viene utilizzato anche su Twitter, indicare dove è stata fatta la foto e magari dare un tema. Per fare un esempio, ci sono al momento oltre 25.000 foto che hanno questo hashtag, questo cancelletto dedicato a Milano. Vuol dire che noi stiamo facendo il più grande album fotografico di Milano mai fatto prima. Sì, album tarocco però, che rappresenta una realtà patinata di passato. Bello, a me diverte, figurati. Tarocco storicizzato. Anche. Io sono il peggior nemico dell'iperrealtà, quindi sono felice se qualcuno costruisce una realtà artefatta, però che 15 milioni di persone nel mondo stiano costruendo e stiano invecchiando artificialmente la loro vita come un mobiliere che vende antichi mobili tarocchi, questo mi affascina. A tra un istante, dopo le informazioni del traffico. Melog. La realtà condivisa. Telefono fisso da muro con gettoniera, fili, presidente statunitense, anni 70, vintage black, 79 euro. Scatolone biscottini Nipiol Buitoni, anni 60, prezzo di partenza 35 euro. Splendido lampione industriale anni 60. Per utilizzarlo in casa basta bypassare il trasformatore e collegare il filo direttamente al portalampada originale. Ideale anche per negozi, bar e birrerie, a partire da 109 euro. 800240024, vedete, esiste un mercato fiorente, una sorta di rigattiere dell'immaginario costruito artefatto. La cosa fantastica però di questa ricostruzione del passato è la patinatura che si fa sul contemporaneo. Io trovo che se non ci fosse la diffusione ormai totale delle applicazioni che permettono di digitalizzare ciò che è concreto e trasformarlo in qualcosa che ha una storia, anche se è semplicemente appartenente al mondo contemporaneo, non potrebbe accadere questo. Non ci potrebbe essere una così diffusa, che studieranno probabilmente tra qualche tempo anche i sociologi, tendenza a patinare il proprio presente. Di solito si cerca sempre di svecchiare, di rinnovare, di trasformare in nuovo ciò che sembrava vecchio. Pensate che in tutti quegli anni che noi stiamo celebrando come gli anni del passato, la formula era ringiovanire. C'erano intere scuole di pensiero che permetteva di ringiovanire quei mobili che oggi vengono ritrovati, quindi si verniciavano con patine di vernice violetto o verde pisello, mobili di sano e robusto e onesto artigianato familiare, si copriva di quelle terrificanti carte da parati fiorate, pareti che in realtà avevano la loro dignità di intonaco. Insomma, la mania di rinnovare oggi fa sì che noi riscarnifichiamo quel rinnovamento e ricerchiamo le radici di ciò che era un passato. In questa sorta di fantastica archeologia vorrei far parlare ancora Emanuela Damiani, che è la giovane melogmane 22enne ciclista venuta in bicicletta fino a Milano, che è anche una grafica, anche un'esperta di queste cose. Emanuela, tu come potrai aver vissuto una tua giovinezza, la tua adolescenza, che non è segnata all'epoca in cui vivi, ma è segnata all'epoca in cui sono vissuto io? Tu sei stata adolescente, tu sei ragazza, esattamente vesti, pensi, immagini, fotografi e trasformi il mondo come era ai miei tempi. Ma il tuo mondo quando avrà una sua dignità di esistenza? Non c'è più, nessuno racconterà più l'epoca come tale quale com'è. Non sarà mai nostalgia degli anni 2012, se gli anni 2012 sono raccontati con il linguaggio degli anni 80. Forse tra vent'anni avremo nostalgia degli anni 2012 e ce li reinventeremo. Ci vorrà un'applicazione che riporterà l'origine delle foto fatte con Instagram e farà vedere tale quali come erano senza filtri. Come erano naturali senza filtri. Lo Magari. Sfiltraggio ci vorrà, che è possibile. Possibilissimo, ma ad esempio mi è venuta adesso in mente una cosa, che nelle repliche dei telefilm, che hanno molto più appeal dei telefilm che vanno in onda in contemporanea, sono in grado di mettere della pubblicità finta vintage, cioè di dei prodotti che vanno del 2012, ma con la grafica del 98. Sì, lo stanno facendo molti grossi marchi di prodotti per la famiglia, stanno tirando fuori le vecchie pubblicità. Esatto. Spendono meno da un certo punto di vista perché rinverdiscono la roba che già avevano, ma comunque danno un valore perché è vintage. E magari desaturano un pochino le vecchie pubblicità che già erano sature, gli danno ancora una patina di più e le mettono in televisione. Ma questo succede anche con il web. Con il web ci sono decine e decine di siti internet riproposti con una grafica da pubblicità anni 50. Anche ad esempio Louis Philippe, che è una grandissima grafica diciamo di corporate identity, lei disegna l'identità delle aziende, sì. Che lei prende tutto l'immaginario art deco italiano, nonostante lei sia una newyorkese, e lo ripropone e lo vende a prezzi, penso, abbastanza alti, perché è una delle più quotate a livello di grafica. E perché? Perché l'estetica del passato ha un valore che è più alto rispetto a quella del... In realtà io penso che noi stiamo cominciando a fare i conti seriamente, concretamente, diffusamente, anche più tenaci luddisti, con la realtà digitale. La realtà digitale permette di applicare il valore del tempo anche a un oggetto che oggettivamente non ha tempo. E quindi, logicamente, se vogliamo dare valore a qualcosa, dobbiamo dire un marchio che storicamente esiste da 10 generazioni, dal 1820 al servizio del suo pubblico, anche se ce lo inventiamo adesso. E quindi lo ricostruiamo. Noi parlammo dello steampunk qualche mese fa, che è una rilettura fantastica di un passato che non c'è mai stato, di una tecnologia ammantata di un valore estetico che appartiene a un'epoca in cui questa tecnologia nemmeno esisteva. Sentiamo Morena Menegatti. Sì, buongiorno. Anche lei si applica in questa meravigliosa contraffazione del presente? Sì, in un certo senso io rimango abbastanza affascinata, ecco, dalla possibilità che la tecnologia ci dà di rivivere il vintage, scegliendo però l'epoca in cui mi voglio riproiettare. Cioè, questo io credo che sia un grosso valore, per esempio, per Instagram, per i filtri, che sono soltanto una parte poi di Instagram. Cioè, io scelgo se ritrarre... Non voglio fare il saputello, io lo trovo un po' limitato il numero di filtri di Instagram, ci sono applicazioni appunto che permettono di fare tante cose in più, addirittura io faccio i miei filmati con una macchina fotografica Pinol, che è addirittura l'antesignana di tutte le macchine fotografiche. Esattamente questo, cioè il valore di Instagram io credo sia più nella condivisione, nella community, nella possibilità di dialogare con persone che hanno una passione per il vintage, che si intende, diciamo, per vintage io direi intendiamo qualcosa che ha un profondo spessore culturale, non è il Robby Vecchi l'appassionato di vintage, ma è qualcuno che sa riconoscere e comprendere quello che è il valore di una cosa passata per quel che riguarda invece la sua... Però si rende conto, Morena, che noi non riusciamo più a fare una foto digitale se non mettiamo qualcuno di questi filtri. Io non riesco più a usare la normale fotocamera del mio iPad per fare una foto, la trovo come una cosa che non ha senso, brutta, fatta male, rispetto a quel bel filtro che dà l'ombreggiatura, quell'altro che dà quella luce sinistra azzurrina delle vecchie Polaroid, o quell'altra che mi mette la cornicetta che sembra bruciata, sembra una foto salvata dal lanciafiamme, senza questo valore che acquisisce e costruisce una storia inesistente. È come per i cloni di Blade Runner, che gli si dava nella memoria un passato che non avevano. Ecco, le foto del nostro presente devono avere una storia che in realtà non hanno. Mi piacciono quelle bruciacchiate tanto, me le immagino tolte da un incendio, la mia foto di il sopravvissuto. Beh, ci sono dei fotografi che stanno usando i filtri come nuova espressione artistica, quindi c'è proprio anche una ricerca nell'uso del filtro più appropriato per trovare un proprio stile proprio fotografico. Quindi è vero che ci sono le persone affascinate da questo genere di congegni, ma ci sono anche i puristi che invece vanno alla ricerca di una condivisione per la diffusione dell'immagine. Ecco, Emanuela, la giovane melomane che è qua in studio, lascia lei la conclusione. Beh, Morena, come tu sai, il filtro dà una profondità sia di immagine a livello visivo, ma anche di sentimento. Noi con il filtro rendiamo la foto più bella esteticamente e più bella per il nostro animo. E finalmente abbiamo capito che per alimentare i sentimenti basta un'applicazione per l'iPad, e di questo sono felice. A domani. Melog, la realtà condivisa.